Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La cosa più bella della commedia è la sua capacità di trascendere, di adattarsi alle condizioni del contesto, permettendoci nel bel mezzo delle tragedie che ci circondano, di ridere, avvolti nell'oscurità. Le parole di Harry Levin, celebre critico letterario americano, bastano per inquadrare un intero genere in tre righe. Da che cosa nasce in fondo la commedia se non dal bisogno di capire, oltre che da quello di evadere? La commedia è forse il genere più attento ai cambiamenti di costume, ai cambiamenti di mentalità, ai cambiamenti linguistici, a costumi che mutano, quindi se una commedia viene fatta bene è un documento molto storico, molto molto importante. Carlo Verdone, si sa, è un grande esperto del genere. Fin dagli esordi dietro la macchina da presa nei primissimi anni Ottanta, l'attore e regista romano ha saputo regalarci personaggi strepitosi e memorabili, capaci di far ridere insieme e di farci riflettere sulle pecche della nostra società. Pellicole ormai diventate di culto, come Un sacco bello, Bianco, Rosso e Verdone o Viaggi di nozze, sono state capaci di spiegare molte più cose di noi stessi e del paese in cui viviamo rispetto a quello che probabilmente sarebbe riuscito a fare un qualunque saggio d'antropologia sociale. E questo, lo straordinario potere di una commedia ben congeniata. Genere assai popolare fin dall'antichità, l'interesse nei confronti della commedia potrebbe essere stato accentuato anche da uno dei misteri più fitti della storia. Così fitto che Umberto Eco ci ha costruito attorno la trama del suo romanzo più famoso, Il nome della rosa. Infatti ipotizza la dinamica della distruzione dell'ultima copia esistente del secondo libro della poetica di Aristotele, dedicato proprio all'analisi del genere della commedia. E adesso che cos'è che vuoi? Voglio vedere quel libro greco che secondo voi non è stato mai scritto. Un libro dedicato interamente alla commedia. Cosa che voi odiate, così come odiate il riso. Voglio vedere quello, che probabilmente è l'unica copia rimasta nel secondo libro della poetica di Aristotele. Ah, Guglielmo, che splendido bibliotecario sareste stato. Il perfido bibliotecario Jorge è incalzato da Guglielmo, monaco benedettino, convinto dell'esistenza di quel secondo libro della poetica mai tramandato ai posteri. Pagine importanti, pagine avvolte dal mistero, pagine che sarebbero state in grado di gettare ulteriore luce su una questione, quella della commedia, che da sempre ha interessato le platee del mondo intero, fin dagli albori della letteratura. Il teatro, da Aristofane a Plauto fino a Shakespeare e Goldoni, è certamente stato per secoli il suo veicolo privilegiato. È solo nel Novecento che la commedia è approdata con successo sul grande schermo. La commedia per bocca del cinema ha saputo divertire e insieme farsi veicolo di enormi cambiamenti socioculturali. A volte addirittura ha saputo cambiare le vite degli attori e dei registi che vi si sono ritrovati coinvolti, come nella vicenda che vi stiamo raccontare. Attenzione, il film di stasera è stato MASH, dove avete seguito le piccanti avventure dei nostri chirurghi militari mentre aprono e cuciono la loro strada verso la vittoria. Operando come bombe, operando mentre le bombe e i proiettili gli esplodono intorno, rubacchiando risate e amore fra amputazioni e penicilline. Dove avete visto Occhio di Falco, Razzo, Duke, Vinsanto, Cassiodoro, Radar, Bollore, Brioche e il sergente maggiore Volmer rimettere insieme i pezzi dei nostri ragazzi? Con Donald Sutherland, Elliot Gould, Tom Skerritt, Sally Callanan, Robert Duvall. Quelli che avete appena sentito sono i titoli di coda di MASH, film del 1970 che ha rivoluzionato il modo di intendere la guerra. Avete appena sentito anche i nomi di alcuni dei membri del cast, tra i quali spicca in cima alla lista quello del protagonista indiscusso della vicenda. È un giovane attore che risponde al nome di Donald Sutherland. Donald Sutherland. Un viso speciale, due occhi magnetici, un'espressione sorniona destinata a regalare alla questione vietnamita una serie di sfumature ben diverse da quelle più canoniche predilette dai film di guerra. Una commedia brillante ed arguta è proprio quello che ci vuole per smontare le convenzioni, accendere polemiche, ravvivare il dibattito su una determinata questione. MASH, da questo punto di vista, è un prodotto perfetto e Donald Sutherland col suo sorriso sbruffone è l'antieroe che tutti sognano. Non tutto quello che nasce nel Nord America è di fatto americano. Dipende da quanto si trovi effettivamente a nord ciò di cui si sta parlando. Donald Sutherland emette il suo primo vagito il 17 luglio del 1935 nel bel mezzo della tiepida estate di St. John, nella regione del New Brunswick, una delle province francofone del Canada. Il futuro attore cresce nella minuscola città di Bridgewater, nell'attigua provincia della Nuova Scozia, che proprio come la terra natale è affacciata sulla fredda costa settentrionale dell'Oceano Atlantico. Sarà la genetica, sarà l'influenza del mare, sta di fatto che il piccolo Donald possiede un paio di strepitosi occhioni color del ghiaccio, due gigantesche sfere trasparenti come l'acqua. La prima parola che ho detto in vita mia è stata collo. Mia madre si è girata di scatto verso mia sorella e ha chiesto: cosa diavolo ha detto? E mia sorella ha detto proprio collo. È che il collo mi faceva un male cane, era un sintomo della poliomielite. Mi è rimasta una gamba più corta, ma sono sopravvissuto. Altro che sopravvivere. Donald, fin da giovanissimo, sceglie di vivere intensamente, ritagliandosi con convinzione il proprio spazio nel mondo. Il padre è rappresentante, la madre è figlia di un pastore protestante e Donald inizia già da ragazzino a discostarsi sia dalla professione paterna che dai retaggi del perbenismo materno. A 14 anni comincia a farsi strada come DJ alla CKBW, radio locale che trasmette sul territorio della Nuova Scozia. Lavora e studia con passione. Frequenta i corsi dell'Università di Toronto aggiudicandosi addirittura una doppia laurea, una in ingegneria e l'altra in arti drammatiche. Due facce opposte della stessa medaglia. Donald è un giovane intraprendente, volenteroso, sicuro delle proprie capacità. Resta solo da decidere se propendere per la carriera da ingegnere o per quella da artista. L'idea di recitare lo affascina fin da ragazzino. Con quel viso così particolare e quegli occhi magnetici, sono in molti a consigliargli di tentare la fortuna su un palcoscenico. Abbandona definitivamente l'idea di fare l'ingegnere e si trasferisce a Londra per frequentare la London Academy of Music and Dramatic Art. Se recitare è diventato il suo sogno, è proprio il nostro paese a offrirgli per primo la concreta possibilità di realizzarlo. Nel 1964 Sutherland fa la sua prima timida apparizione sul grande schermo nell'horror ormai diventato cult, Il Castello dei Morti Vivi. Beware the castle of the living dead. The castle of the living dead. Avete sentito questa voce? È quella di una vecchia strega incappucciata che mette in guardia un gruppo di persone dall'avvicinarsi al pericoloso castello del titolo, abitato dai non morti. A interpretare questa gotica e inquietante figura è proprio Donald Sutherland. Un esordio bizzarro, ma decisamente efficace. Donald ormai ha capito che quella è la sua strada. Gli vengono proposte sempre più spesso piccole parti e lui le accetta di buon grado, sperando che prima o poi gliene capiti una un po' più importante, quella giusta. È il 1967 e a Hollywood il regista Robert Aldrich lavora alla sua nuova pellicola, la storia di un manipolo di galeotti coinvolti in una pericolosa missione militare. Progetto Amnistia. Scegliete 12 militari condannati a morte o a lunghe pene detentive per omicidio, stupro, rapina o altri crimini di violenza, eccetera. Addestrate questi detenuti in azioni di sabotaggio dietro le linee in un periodo breve ma non definito. Li invierete poi in segreto nell'entroterra europeo prima dell'invasione per distruggere l'obiettivo specificato in allegato. Tutto qui? Tutto qui. 12 avanzi di galera sono pronti a formare sul grande schermo quel nutrito gruppo di squinternati che passerà alla storia come la sporca dozzina. Donald Sutherland ancora non lo sa, ma avrà la fortuna di essere uno di loro. We'll be right back. Nella seconda metà degli anni 60, Donald Sutherland ha superato la boa dei 30 anni ed è ancora un attore pressoché sconosciuto. Macina audizioni su audizioni, provini su provini, casting su casting, nella speranza di venire notato da qualcuno. È lui stesso a raccontarci un aneddoto in proposito. Io ero convinto che la mia carriera avrebbe avuto un'impennata con un film intitolato Three in the Morning, che risale ad un paio d'anni prima di quella sporca dozzina. Per quel film credo di aver fatto la migliore audizione della mia vita, tanto che sono corso a casa da mia moglie e le ho detto che la parte era sicuramente mia. Mi hanno richiamato e sono andato a fare un incontro con loro. C'erano il produttore e il regista e mi dicono: tu hai fatto la migliore audizione che chiunque potesse fare per questo ruolo, sei stato grandioso, ci spiace davvero di non poterti dare la parte. Il punto è, crediamo che il protagonista debba essere un ragazzo della porta accanto e francamente a guardarti non sembra che tu abbia mai vissuto nella porta accanto a quella di nessuno. Ma veramente, mi hanno detto così. L'ennesimo provino è andato male. Sutherland ormai ci ha quasi fatto l'abitudine, ma non per questo si perde d'animo e continua imperterrito a tentare la fortuna. Con Three in the Morning è andata male per via di quel suo viso e quello sguardo così particolari. Ma lo staff di produzione di quella sporca dozzina, invece, è proprio alla ricerca di un volto fuori dal normale. Gli addetti ai lavori devono assemblare una squadra di criminali pronti a essere reclutati per far parte di un comando destinato a una missione suicida contro i nazisti. Sutherland, ai casting, fa colpo niente meno che sul regista Bob Aldrich. Clint Walker disse che lui doveva interpretare questo ruolo di un condannato che fingeva di essere un generale. E non gli sembrava che gli facesse onore il fatto di interpretare un personaggio del genere. Non credeva che andasse bene per la sua fama di attore nell'ambiente di Hollywood. Bob Aldrich era il regista e in un batter d'occhio in quel momento mi guardò. Non sapeva nemmeno il mio nome. Guardò attorno al tavolo e disse: tu con le orecchie grandi, la parte è tua. Ed improvviso la mia vita è cambiata, solo perché avevo le orecchie grandi. Questa è probabilmente l'ultima volta in cui dalle parti di Hollywood si sente pronunciare il nome di Clint Walker ed è la prima invece in cui il nome di Sutherland inizia a circolare in quella zona. Certo, la sua è una parte minuscola e Donald non manca mai di scherzarci sopra. In Dirty Dozen io non dico nemmeno una battuta. No, dico davvero, era una comparsa, un'inutile comparsa muta. All'epoca vivevo a Londra, facevamo le prove e seduti attorno ad un tavolo c'erano Telly Savalas, Charles Bronson e Clint Walker. Telly Savalas ha già ricevuto una nomination all'Oscar nel 1963 per la sua interpretazione ne L'uomo di Alcatraz. Charles Bronson è già diventato una star dopo la sua interpretazione nei Magnifici Sette di John Sturges. Attori riconoscibili, non ancora consumati, ma certamente già proiettati nell'Olimpo dei grandi schermi di tutto il mondo. Quella di dividere con loro la scena è un'occasione che Donald Sutherland sa di non poter perdere. Accetta la parte, anche se sa che si tratta poco più che una comparsata. Ma è quanto basta per farsi notare dai produttori negli ambienti hollywoodiani, stregandoli con la sua stralunata interpretazione di Vernon L. Pinkley, l'avanzo di galera pronto a fingersi generale per il bene e il divertimento dei propri compagni. Chi di voi vuole fare il generale? Il generale? Fare cosa? Pinkley. Ma che tipo di generale? Il comune, solito, normale, bonaccione, generale americano. Preferirei fare il borghese. Mi dica tutto, allora. Avrai visto un generale ispezionare troppo. Passo lento e sguardo svanito. Vai su e giù fra le righe e torni diritto al camion. Qui si aspettavano un generale oggi e noi gliene forniremo uno. Scendete. La voce del maggiore John Reisman è più ferma che mai e il suo battaglione di condannati a morte non esita un istante a farsi beffe delle trite consuetudini delle più alte cariche militari. Un approccio scanzonato e irriverente nei confronti della disciplina militare e più in generale nei confronti delle questioni belliche che sembra preparare il terreno per un'altra pellicola e per un nuovo ruolo calzato a pennello sui tratti di Donald Sutherland. Il produttore hollywoodiano Ingo Preminger non può fare a meno di notarlo nella sporca dozzina e pensare che il prossimo film a cui sta lavorando sia un trampolino perfetto per quel volto così speciale, soprattutto se stavolta è chiamato a far la parte del protagonista. La fase 1 della carriera di Sutherland si conclude e se ne apre una tutta nuova. Il ruolo immediatamente successivo a quello del soldato Pinkley sarà quello che cambierà tutto, non solo nella sua carriera, ma anche in quella di un giovane regista fino a quel momento piuttosto sfortunato. Lo conosceremo tra poco, a Destini Incrociati. Through early morning fog I Destini incrociati a Hollywood e sta seguendo la carriera di Donald Sutherland, attore di origini canadesi che per anni ha interpretato ruoli minori senza mai riuscire a sfondare per davvero. La prima occasione di farsi notare ce l'ha in quella sporca dozzina, dividendo la scena con volti celebri come quelli di Charles Bronson, già star dei Magnifici Sette, o Telly Savalas, il futuro tenente Kojak. Sutherland non ha un nome né un volto conosciuti e la sua parte in quella sporca dozzina, a dirla tutta, contempla giusto un paio di battute. Ma il suo prossimo ruolo, invece, sarà proprio quello della consacrazione. Ingo Preminger, produttore hollywoodiano fratello del celebre regista Otto, lo vuole a tutti i costi per interpretare il protagonista di una commedia destinata a cambiare per sempre le regole del cinema di guerra. Ingo Preminger aveva visto quella scena in quella sporca dozzina. Praticamente era l'unica in cui comparivo. È stato lui a volermi nel cast di MASH, con tutte le forze, ben prima di aver trovato un regista che lo dirigesse quel film. MASH è la dark comedy che all'inizio degli anni 70 riscrive il manuale del comportamento nei confronti del conflitto vietnamita. Tratta da un romanzo di Richard Hooker e ambientata durante la guerra in Corea degli anni 50, la pellicola in realtà parla chiaramente del Vietnam, mettendo in ridicolo i cliché del mondo militare e favorendo una seria riflessione sulla guerra in generale. La produzione ha puntato gli occhi su Sutherland come perno del cast, ma deve ancora trovare un regista. Preminger ha già proposto il soggetto ad almeno una decina di persone, ma tutte si sono rifiutate di sedersi dietro la macchina da presa, giudicando la sceneggiatura troppo anticonformista e rischiosa per le loro carriere. Ci vuole qualcuno che non abbia paura di essere dissacrante, qualcuno che non tema lo sdegno di esercito e istituzioni, qualcuno che non abbia praticamente nulla da perdere perché ormai la sua fama nell'ambiente è quella di regista più licenziato o dimissionato sulla piazza. Questo qualcuno risponde al nome di Robert Altman. Robert Altman. Altman ha 45 anni e non è un novellino nell'ambiente, anzi, tutti lo conoscono per le sue note e leggendarie intemperanze. Per colpa di esse non è mai veramente riuscito a sfondare. Nessuno l'ha mai creduto davvero capace di portare a termine un lavoro, stavolta però è diverso. Altman è l'unico che possa maneggiare una sceneggiatura come quella di MASH senza storcere il naso, mettendo finalmente a frutto il suo caratteraccio e il naturale sprezzo nei confronti degli ordini altrui. Sono cresciuto come un bambino normalissimo. Non c'è proprio nulla di emozionante da dire in proposito. Per diventare un adulto con un carattere difficile non bisogna necessariamente essere un bambino pieno di problemi. Altman nasce a Kansas City nel Missouri, nella primavera del 1925. Suo padre è un assicuratore che garantisce alla famiglia un ottimo tenore di vita, benché sia un appassionato di scommesse e un grosso giocatore d'azzardo. Ha un'infanzia piuttosto ordinaria, senza guizzi né particolari sbavature. Forse è proprio per questo che una volta cresciuto avverte con forza il bisogno di staccarsi una volta per tutte dalla normalità, dal perbenismo, dalla quiete della provincia americana. La sua famiglia è cattolica. Robert viene educato dai gesuiti apprendendo tutti quei precetti morali e comportamenti di cui ben presto si sbarazzerà. Quando sedicenne lascia la casa paterna per frequentare la scuola militare, la madre e la sorella lo mettono su un treno, raccomandandogli di tenere ben stretta la sua fede in Dio. Ed è proprio da quel giorno che Robert smette per sempre di andare a messa. Nel 1943, senza avere mai lasciato il Missouri o il Kansas prima di quel momento, è costretto a partire come soldato durante il secondo conflitto mondiale. Ha solo 18 anni, eppure è un ottimo copilota di bombardieri F-24. A 20 anni, nel 1945, Altman ottiene il congedo. L'esercito cerca in tutti i modi di convincerlo a restare tra le sue fila, ma Robert non ha nessuna intenzione di passare i migliori anni della sua vita sottostando all'autorità militare e non solo. È inutile cercare una ragione nobile e profondamente umana dietro la mia scelta di non proseguire la carriera militare. Non mi andava più, semplicemente. La mia libertà me l'avevano già sottratta una volta ed era più che sufficiente. Tutto quello che volevo fare era sedermi sulla panchina e fischiare le ragazze di passaggio. Però c'è da dire che un giovanotto di 20 anni era comunque riuscito a resistere alle due più potenti istituzioni in circolazione, ovvero l'esercito e la chiesa. Se avesse scelto di restare a far carriera nell'esercito, probabilmente Altman sarebbe stato mandato di lì a poco in Corea, scenario in cui un giorno si muoveranno proprio i personaggi di MASH. Non ci sono grandi ideali dietro la sua decisione di non portare la divisa. Altman diventa ateo e pacifista in modo del tutto naturale, non partendo da questioni di principio, ma dalla pratica di tutti i giorni, semplicemente reagendo all'ingombrante tenacia delle due istituzioni che fino a quel momento hanno occupato più spazio nella sua vita. in maniera altrettanto naturale, senza sforzo apparente né particolare desiderio di sfondare, si avvicina al mondo dello spettacolo. Si trasferisce dal Missouri alla California e inizia a lavorare nell'industria pubblicitaria che negli anni del boom del dopoguerra è particolarmente florida. Intanto, insieme all'amico Richard Fleischer, scrive un po' per caso, un po' per gioco, una sceneggiatura. È quella del poliziesco Squadra Mobile 61, immediatamente acquistata dalla RKO. L'inaspettato successo spinge il poco più che ventenne Altman a New York, dove tenta in ogni modo di proseguire la carriera come scrittore. Invano. Ritornato a Kansas City, Altman trova lavoro come regista di documentari industriali per conto della Calvin Company. Ne dirige ben 65, numero che gli permette di acquisire una notevole dimestichezza col mestiere, benché i suoi tentativi di gloria cinematografica siano fin lì naufragati. Nel 1956 dirige addirittura un vero lungometraggio dal titolo The Delinquents, pellicola sulla delinquenza giovanile di cui si pentirà per il resto della carriera. C'è poco da pentirsi, tuttavia. The Delinquents, in un modo o nell'altro, lo fa notare dagli addetti del settore, tanto che gli arrivano diverse offerte per lavori televisivi. Una di queste la riceve niente meno che da Alfred Hitchcock in persona. Alfred Hitchcock presenta è certamente una delle pietre miliari della TV delle origini, eppure Robert Altman, voluto dallo stesso Hitchcock, dirige soltanto due episodi prima di dare le dimissioni a causa di divergenze insanabili con la produzione. Un paio di puntate di una serie tanto popolare comunque bastano per farsi un nome nell'ambiente del piccolo schermo. Altman dirige diversi episodi di Bonanza, Combat e del Kraft Television Theater. Viene spesso licenziato dai produttori per colpa del suo carattere difficile e del rifiuto a soddisfare le richieste dei network, unito al fastidioso vizio di inserire nei suoi lavori un corposo sottotesto polemico e antimilitarista, specialmente durante gli anni della guerra in Vietnam. Gli anni televisivi gli servono per migliorare ulteriormente la tecnica registica, affinando sempre di più le sue doti narrative. Sul grande schermo, tuttavia, non riesce a sfondare. Il thriller fantascientifico Conto alla rovescia e il successivo dramma Quel freddo giorno nel parco non riescono a destare l'attenzione del pubblico e della critica, rivelandosi entrambi dei giganteschi flop. Altman, sulla soglia degli anni 70, è un ormai 45enne regista incompreso che ai produttori non offre garanzie. Tanto vale affidargli la regia di una commedia, MASH, in cui nessuno sembra credere veramente. Un po' per difetto di lungimiranza e un po' per l'oggettiva scomodità dell'argomento trattato, come ricorda lo stesso Altman. Uscirsene con qualcosa di così controcorrente come era stato MASH nel 70, adesso sarebbe impossibile. Una farsa antimilitarista ambientata nell'ospedale mobile da campo del titolo, il Mobile Army Surgery Hospital, dove i chirurghi ne combinano di tutti i colori, infischiandosene della disciplina. Tra loro c'è il capitano Occhio di Falco Pierce, uno spilungone dagli occhi di ghiaccio e dal sorriso sghembo e a modo suo conturbante. Sono gli enormi occhi azzurri e lo strano sorriso di Donald Sutherland, qui alla primissima esperienza in qualità di attore che pronunci più di due battute. Stavolta altro che due battute. Sutherland ha un ruolo da protagonista e Altman saprà valorizzarlo. Per prima cosa io non costringo gli attori, ma li lascio fare un po' quello che vogliono. Non pongo limiti alla loro interpretazione. Un 45enne regista bistrattato e un 35enne attore sottovalutato si ritrovano sullo stesso set, pronti a far faville in tutti i sensi. Destini incrociati è sul set di MASH, film del 1970 che finge di parlare della guerra in Corea per polemizzare invece sul Vietnam. Una commedia briosa e irriverente, girata con sapienza inventiva da Robert Altman e magnificamente interpretata da Donald Sutherland, il chirurgo più sfacciato della storia del cinema. E pensare che nessuno credeva nelle potenzialità di questo film, come ricorda lo stesso Altman. Un giorno un produttore che conoscevo venne da me e mi disse: «Beh, lo sai che questo film andrà direttamente nei drive-in, vero? Nessuno lo guarderà davvero, fatene una ragione». E invece pare sia andata diversamente. Anziché andare nei drive-in, MASH va al Festival di Cannes, dove si aggiudica niente meno che la prestigiosa Palma d'Oro come miglior film. Se il tempio europeo del cinema di qualità lo consacra, anche gli impietosi ingranaggi hollywoodiani non mancano di rendergli omaggio. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences premia con l'Oscar la sua folle e scomoda sceneggiatura fatta di dialoghi dissacranti e fulminei, sorretti e sostanziati dalla bravura di attori come Sutherland. E mi sono anche accorta che le infermiere e i militari di truppa la chiamano Occhio di Falco. Già, già, è il mio soprannome, Occhio di Falco. Beh, questo genere di familiarità, a mio avviso, non contribuisce alla migliore efficienza di un'organizzazione militare. Ah, ma la vuoi piantare, maggiore? Ma hai tolto il gusto di mangiare la ragosta, ti rendi conto? Ora vado, me ne vado a letto e annevo la mia nausea in una bottiglia di scotch. In circostanze normali, dato che tu sei quello che normalmente chiamerei una donna molto attraente, io t'avrei invitata a dividere la mia branda con me e tu forse ci saresti venuta. Ma mi hai proprio stomacato, insomma tu sei il classico infuso di cacca militarista. Io mi domando come abbia fatto un degenerato come quello a raggiungere una posizione di responsabilità nel corpo della sanità militare. Una batteria di ottimi attori non può far molto se non ha un ottimo regista a dirigerli, e Altman in questo è maestro. Lascia spazio all'improvvisazione, dando modo al talento di ciascuno di fluire liberamente. I film per Altman accadono quasi per caso. Sono il frutto di una serie di accidenti ed errori misteriosamente concatenati. Un atteggiamento follemente geniale o genialmente folle, dipende dai punti di vista. Di certo, è un approccio che non tutti si sentono di condividere. Io non sapevo niente e Donald Sutherland e Elliot Good andarono insieme dal produttore Ingo Preminger e cercarono di farmi licenziare. Gli dissero che io stavo facendo di tutto per rovinare le loro carriere. Secondo loro io passavo troppo tempo a preoccuparmi delle comparse, di quelli della troupe, di tutti tranne che di loro. Io non ne seppi nulla fino alla fine delle riprese. Poi fu proprio Elliot a venire da me e dirmelo. Le star di una pellicola che tentano l'ammutinamento durante le riprese del film che li renderà celebri. Un gesto sconsiderato o una mossa inevitabile? Elliot Gould e Donald Sutherland, protagonisti incontrastati di MASH, hanno problemi con il regista Robert Altman. Va bene lasciare agli attori lo spazio per improvvisare, ma Altman sembra disinteressarsi totalmente del loro lavoro, lasciandoli in balia degli eventi che accadono sul set. I due tentano addirittura di farlo licenziare. Il destino di Altman sembra ripetersi all'infinito, ma la produzione, finalmente accortasi del talento del regista, stavolta non se lo farebbe sfuggire per nulla al mondo. Non c'è bisogno di dire che da quel giorno non ho più lavorato con Sutherland. Altman sostiene che Sutherland volesse farlo licenziare a ogni costo. Sutherland sostiene che Altman abbia fatto di tutto perché l'attore venisse cacciato dal set. Un fuoco incrociato di accuse sullo sfondo di uno dei film più popolari degli anni 70. 3 milioni e mezzo di budget iniziale contro 81 incassati al botteghino, suggellati dal plauso pressoché incontrastato della critica, oltre a quello delle platee di tutto il mondo. Da quel momento, tuttavia, Altman e Sutherland non lavoreranno mai più insieme. L'attore ricorda il regista senza nascondere le loro divergenze. Non è che io lo odi, è che quando qualcuno cerca di farti fuori, non è che poi tu gli sia particolarmente affezionato. Le carriere del regista e dell'attore ormai proiettate nelle più alte sfere del firmamento hollywoodiano procederanno senza sosta. Mentre MASH diventa una popolarissima e longeva serie televisiva, la cui puntata conclusiva, andata in onda il 28 febbraio 1983, detiene tuttora il record di episodio più visto della storia della TV americana, con ben 125 milioni di telespettatori, Altman preferisce dedicarsi al cinema sfornando negli anni immediatamente successivi due tra i suoi più grandi capolavori, I Compari e Nashville. Sutherland, ormai capacissimo di spaziare con agilità dall'horror al dramma alla commedia, nel 1976 viene scelto da Federico Fellini per vestire i panni niente meno che di Giacomo Casanova. Due carriere brillanti, brillantissime. Una delle due, quella di Robert Altman, purtroppo si è conclusa nel 2006 per colpa della leucemia, non prima però di aver beneficiato dell'onore di un Oscar alla carriera. Non siamo sicuri che Donald Sutherland fosse seduto tra il pubblico del Kodak Theater di Los Angeles ad applaudirlo. Ma ci piace pensare che sia andata proprio così. Ovviamente sono contentissimo di ricevere questo premio. Per me è come un grosso cenno d'approvazione nei confronti di ogni mio singolo film, che poi in realtà a me, fin qui, sembra di aver fatto un unico lunghissimo film. If that's all.